Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Don Domenico chiese a me e a Sergio se potevamo assentarci per una mezz'ora e seguirlo per una faccenda che doveva sbrigare urgentemente. Ciao, mi chiamo Alessandro, 57 anni, abito a Nova Milanese, ho due figli e una moglie, faccio l'agente di commercio e vendo giocattoli. È ormai passato ufficialmente la metà di maggio ed è quindi aperta la stagione dei matrimoni. 8-0024-0024. Oggi, in diretta, che siate maschi, femmini, uomini o donne, che poi è più o meno la stessa cosa, che siate sposi o spose, questa è la puntata per voi. State per sposarvi? A che punto siete? Avete trovato l'abito? Avete trovato il ristorante? È tutto a posto ma mancano gli anelli? Il testimone ha dato forfè? Vi siete lasciati? L'ultimo momento, 80024 0024, tutto a partire dalla storia di oggi, come facciamo ovviamente tutti i giorni. Ad ogni puntata partiamo da una storia e cerchiamo di allargarla, cerchiamo di raccontare qualcosa di più, comprese le vostre di storie, appunto, comprese le vostre vite di sposini a cui manca pochissimo, fine maggio, metà giugno, primi di giugno. 80024 0024. Vi dicevo, la storia di Egidio e di Rosetta che ci racconta Luigi in questa puntata. No, Alessandro, che Luigi, che ci racconta Alessandro in questa puntata. È una storia di un matrimonio particolare, questa, quindi preparatevi, perché insomma c'è della forte emotività, come ogni tanto succede a voi siete qui. 80024 0024, se state per sposarvi, vi ripeto, se magari siete in automobile e state andando con vostra madre a comprare l'abito, vicino casa mia, proprio sotto casa mia, c'è un negozio da sposa di quelli delle città molto molto come dire, molto ripuliti, molto precisi. Ogni tanto ci girano anche delle robe di quei programmi televisivi tipo Chi veste la sposa, quelle cose lì. Ogni giorno, più o meno alle 2, quando porto il cane prima di arrivare al parchetto lì davanti, prima di venire qui in radio, c'è sempre una sposa che si sta provando un abito ultimamente, sempre, con la mamma e un gruppo di amiche. Magari ci state andando in questo momento. 80024 0024, a che punto siete? Prima di partire con la storia, però, vi ricordo anche che è vero che si è aperta la stagione dei matrimoni, ma che sta per arrivare l'estate, e noi abbiamo in serbo un'estate di racconti per tutto il mese di luglio, di racconti freschi, di racconti nuovi, che chiediamo direttamente a voi. Una cosa che non facciamo, ma che ultimamente abbiamo invece preso l'abitudine di fare, è di chiedervi dei temi, di chiedervi proprio delle tematiche di riferimento, delle storie quindi legate a quattro tematiche che affronteremo nel mese di luglio, che sono: il primo, storie legate ai mondiali. Sapete che a breve si comincia, e quindi storie legate a quella partita che avete visto chissà dove, o quella che vi siete perse invece perché eravate di guardia al militare. Voi siete qui, @radio24.it, ma anche storie di guerra, visto che è un secolo dalla prima guerra mondiale, storie che magari vi hanno raccontato i vostri nonni, i vostri zii, i vostri genitori. Voi siete qui, @radio24.it, ma anche storie di avventura, ma di avventura vera, qualcosa che vi è successa e non vi aspettavate, vi siete trovati in grande difficoltà e ne siete usciti, ma anche storie di viaggio, semplicemente perché state per partire, perché vi fate il vostro viaggio in giro per il mondo, o semplicemente andate al mare nel posto in cui andate da 20 anni. Voi siete qui, @radio24.it. Storie di mondiali, storie di guerra, di avventure e di viaggio. Per l'estate con voi siete qui. Ma veniamo alla storia di oggi, che parla di due signori che stanno per sposarsi. È una storia un po' fuori dal normale rispetto alle abitudini che abbiamo quando si pensa ad un matrimonio normale. Ma ricordatevi, se siete pronti per il vostro matrimonio, se state per sposarvi, 80024 0024. Raccontateci a che punto siete. Luigi, il papà del mio amico Sergio, era stanco di vivere nell'Interland milanese. Con i risparmi di una vita di lavoro, in previsione della agognata ed imminente pensione, acquistò un casale abbandonato a Panicale, in Umbria, e decise, in accordo con la famiglia, che si sarebbero trasferiti là una volta ultimati i lavori di ristrutturazione. I lavori di muratura e di consolidamento furono affidati ad un'impresa locale, che nel giro di qualche mese trasformarono il fatiscente edificio in una splendida e funzionale casa di campagna. Luigi si trasferì a Panicale per seguire da vicino i lavori e nel periodo delle vacanze scolastiche estive chiese a Sergio un aiuto per lo svolgimento di alcuni lavori semplici, che non necessitavano competenze particolari, tipo sistemazione del giardino, pulizia dello scantinato, tinteggiatura pareti, porte e cancellate. E e Sergio mi chiese se poteva interessarmi un'esperienza di quel genere e io accettai di buon grado, anche perché con Luigi i patti furono subito chiari: lavoro al mattino, libera uscita al pomeriggio e alla sera. Luigi, il papà di questo mio amico Sergio, aveva acquistato un casale a Panicale, in provincia di Perugia, con vista sul lago Trasimeno, un posto molto bello. Il casale era praticamente semi abbandonato, era tutto da ristrutturare, e di conseguenza io e mio amico Sergio siamo andati lì durante il periodo estivo, perché noi studiavamo ancora, a dargli una mano per cercare di aiutarlo nei lavori, diciamo, più semplici. E fu proprio in una di quelle mattine dedicate al lavoro che si presentò in cantiere Don Domenico. Amico di Luigi, era un prete particolare, molto socievole e disinvolto, un po' burbero forse. Insomma, il classico prete di campagna, pratico, concreto e molto alla mano. Chiese a me e Sergio se potevamo assentarci per una mezz'ora e seguirlo per una faccenda che doveva sbrigare urgentemente. Venite pure così, vestiti da lavoro, non importa, l'importante è che si faccia presto, disse. Lo seguimmo incuriositi con la nostra auto. Lui guidava velocemente la sua Renault 4, su e giù per i tornanti delle colline attorno al lago Trasimeno. Sembrava un pilota di rally, noi faticavamo a tenergli testa. Alla fine ci condusse alla sua piccola chiesetta, in un antico convento disperso tra gli ulivi in mezzo alla campagna. Ad attenderci, all'ingresso, solamente un uomo e una donna, vestiti elegantemente e un po' spaventati. Sebbene non li avessimo mai visti prima da allora, ci accolsero con un sorriso ed ebbe l'impressione che nel vederci si fossero sollevati. Noi allora capimmo, come se Don Domenico non ce l'avesse nemmeno chiesto. Dovevamo fare da testimoni al loro matrimonio. Don Domenico ci diede appena il tempo di presentarci, di scusarci per l'inusuale abbigliamento, due tute sporche di vernice di cemento, e la cerimonia ebbe inizio. Forse Don Domenico aveva paura che qualcuno entrasse all'improvviso per interrompere la funzione. Di fatto la cerimonia durò poco e finì molto in fretta. Non facemmo quasi in tempo a renderci conto di ciò che avevamo contribuito a realizzare. Avevamo aiutato due persone innamorate a coronare il loro sogno. Alla fine della breve funzione, quasi sottovoce, ci dissero che si erano sposati di nascosto e contro il volere dei rispettivi figli, e ci ringraziarono con voce tremante e con le lacrime agli occhi. Poi ci dissero l'età. Lui, Egidio, aveva 80 anni, lei, Rosetta, 79. La commozione era palpabile e noi, che eravamo forse più emozionati di loro, balbettammo qualche frase di circostanza, tipo «Ma via, non le dimostrate, 100 di questi giorni». E per fortuna non ci venne in mente di pronunciare il classico «E figli maschi?». Allora, i due vecchietti, Egidio e Rosetta, ho un ricordo abbastanza vago perché oramai sono passati più di 30 anni, però ricordo veramente che il momento che li abbiamo visti mai più mi sarei aspettato di trovarmi di fronte due persone che dovevano compiere quel gesto. Al momento sembravano un po' spaventati, un po' titubanti, molto eleganti, devo dire, quell'eleganza contadina classica, niente, ho avuto quell'impressione. Quando tornammo in cantiere e Luigi ci chiese «Ma cosa avete fatto di così importante ed urgente con Don Domenico?» «Niente, abbiamo fatto felici due ragazzi», fu la nostra risposta. E poi continuammo soddisfatti nel nostro lavoro. Nella stessa chiesetta, qualche anno dopo, si è celebrato un altro matrimonio. La cerimonia durò più a lungo, gli invitati furono più numerosi e i testimoni senza dubbio più eleganti. Lo sposo si chiamava Sergio, che si univa a Lela, mia sorella. Il prete, anche se un po' più appesantito dagli anni e dagli acciacchi della vecchiaia, era sempre lui, Don Domenico. E uno dei testimoni, questa volta però in giacca e cravatta, ero io, Sandro. Ricordo bene però che Sergio, forse ripensando a quello che era successo in quel luogo qualche anno prima, continuava a voltarsi e a scrutare la porta. Anche lui forse aveva paura che qualcuno entrasse all'improvviso per interrompere la cerimonia. Ma chissà, comunque mia sorella Lela non si è accorta di nulla. E dimenticavo, sull'ultima panca, quasi defilati, ma con un sorriso che faceva trasparire serenità, c'erano due vecchietti. Non c'è ovviamente la foto di Egidio e di Rosetta che si sposano, c'è però uno scorcio, e sono due fotografie sul nostro sito, la pagina di Voi Siete Qui Oggi, che raccontano questa storia. Uno è lo scorcio di Panicale, che è un paese bellissimo, proprio incastonato appena sopra il lago Trasimeno, quasi al confine con la Toscana, ma ovviamente è in Umbria. È proprio il borgo che vi immaginate quando pensate a un piccolo borgo del centro Italia, insomma di quella zona bellissima dell'Italia. E l'altra invece è una fotografia della chiesetta dove tutto avviene, sia la storia di Egidio e di Rosetta, sia la storia dell'amico di Alessandro e di sua sorella. 800240024, sono cadute le telefonate che avevamo, quindi vi chiedo di richiamare 800240024. Se vi state per sposare, se avete in questo momento caldo tra le mani un matrimonio, se siete la sposa o lo sposo e se in qualche modo vi state avvicinando a quel momento, c'è tensione, c'è ansia, insomma quelle robe lì che in realtà conosciamo tutti, però sentire raccontare è sempre abbastanza sconvolgente. 800240024. Gabriele ad esempio scrive: 5 luglio 2014, ore 17:30, quindi mancano maggio, giugno, un mese e mezzo, no? Sì, un mese e mezzo, Paolino. Siamo due mesi, fai due mesi. Mancano due mesi alle 17:30 del 5 di luglio, quasi tutto pronto, ma dentro quel quasi c'è un mondo di ansie e di paure. A breve le farò la serenata, scrive Gabriele. Forse è una roba che si fa in alcune zone del paese ancora, non lo so, nelle Marche, Paolino. 800240024, se qualcuno fa la serenata o ha fatto la serenata alla propria moglie. Filippo mi scrive sul profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, Voi Siete Qui, Radio 24. Mi sposo con Valeria a fine agosto. Pronti ristorante, fotografo, vestito di lei e viaggio di nozze. Mancano partecipazioni, bomboniere, vestito mio e fedi. Le partecipazioni sono gli inviti. Cioè, la partecipazione è l'invito che ti arriva a casa, no? Giusto? Alcuni usano l'email adesso, semplicemente. C'è qualcuno che ha usato un'email e se l'è sentito rinfacciare? 800240024. Mancano, dicevamo, un giorno sembra che sia tutto fatto, scrive Filippo. Il giorno dopo siamo in pieno delirio da ritardatari, un casino che sembra ingestibile. Mesi fa mi chiedevo a cosa servissero i wedding planners. Ecco, a me piacerebbe sentirlo un wedding planner. Non ci sarà nessuno all'ascolto ovviamente in questo momento, però se dovesse esserci, 800240024. Ricordo al volo, visto che me li chiedevano di nuovo, i temi, gli argomenti che ci piacerebbe ricevere quest'estate, per i racconti di quest'estate. Il primo è più facile, sono i mondiali di calcio, perché stanno per arrivare. Il secondo è un po' meno, perché deve avere una storia diretta di racconto di guerra, quindi mondiali, guerra, avventura, se vi è successo qualcosa di avventuroso, e viaggio, se invece avete un viaggio particolare a cui siete affezionati da raccontare. Voi siete qui, @radio24.it. Se invece vi state per sposare, 800240024. Abbiamo una telefonata. Oggi le linee hanno un problema, ma lo stanno richiamando. Ed ecco di nuovo: mi sposo tra 5 giorni. Sono talmente nel panico che quasi ho in mente di scappare. Non ho capito che cosa voglia dire, se sono nel panico per il matrimonio che si avvicina o semplicemente perché non sono ancora pronto alle nozze. 800240024. Di solito, tra l'altro, l'avvicinamento è diverso, no? Cioè, i maschi lo approcciano in maniera diversa dalle ragazze. È caduta anche l'ultima telefonata, per cui niente, ci teniamo quello che abbiamo. Allora vi ricordo di nuovo i temi che abbiamo. Scusa, è arrivato un messaggio in questo momento, che sono 6 messaggi fuori contesto, che però sono sempre i migliori. Ma non posso leggerlo questo, perché altrimenti poi... No, questo non ve lo leggo. 800240024. Vi ricordo una storia legata ai mondiali, una storia legata ad avventure di viaggio e una storia invece legate alla guerra. o al viaggio, l'avventura di viaggio erano la stessa cosa. A proposito di approccio ai matrimoni, cioè, l'avevo già raccontato, credo, questa cosa legata all'unico matrimonio, diciamo, a uno dei matrimoni a cui ho partecipato in maniera diretta perché facevo il testimone, che era il matrimonio di mia sorella e di Emanuele, che adesso è il suo attuale marito, che si sono avvicinati al matrimonio chiaramente in una maniera molto diversa l'uno dall'altro, dal momento che Emanuele diceva: Tiziana, abbiamo 38 anni, mi raccomando, non facciamoci ridere dietro, non siamo più dei ragazzini. Mia sorella invece si immaginava chiaramente il matrimonio sull'isola Pescatori, come se fosse una principessa, e ovviamente è andata così. 800 24 0024. Simone da Roma. Ah, Simone da Roma non c'è, è caduto. Simone da Roma non ce l'abbiamo. Niente, è caduta la linea. Come si fa a dire 100 di questi giorni a due sposi? Come si fa a dire? Boh, non so, lo si dice. Gabriele mi scrive: In realtà non è che qua si faccia la serenata. Ah, è quello della serenata. Ma so che a lei piacerebbe, e allora la farò con i miei amici dello stadio, in stile tifo da stadio. Gabriele, ti prego, no. Guarda, parliamone seriamente. La serenata in coro tifo da stadio è una roba che proprio non si può sentire. Abbiamo al volo, prima di chiudere, abbiamo preso una telefonata. Pronto? Buongiorno, ciao. Sono Valentina. Ciao Valentina. Guarda, scusami, ma oggi con i telefoni avevamo qualche problema, quindi abbiamo giusto un minuto. Dimmi quanto manca alle nozze. No, io sono una wedding planner, ho sentito ricercare. Tu sei una wedding planner? Ma quindi esistete davvero, non solo sui programmi di real time? No, esistono, voglia, sì. Da quanto lo fai, Valentina? Senti, io dal 93. Ah, ammazza, ma... All'inizio cantavo e basta, i matrimoni, sono una cantante lirica, quindi... Venivi chiamata per quello, ok. Sì, ma invece mi ci sono appassionata, e soprattutto con gli stranieri che vengono nel nostro territorio, visto si è... Ah, certo, quello, certo, giusto. Quanti matrimoni ti fai all'anno, Valentina? Senti, ora sono arrivata a 2000, secondo me. No, aspetta, 2000 dall'inizio della tua carriera? Dal 93, sì. Però in un anno quanti te ne fai? Allora, ultimamente sono un po' diminuiti, però diciamo ne facevo anche 70-80. All'anno? Sì. Ma non ci sono weekend abbastanza per farli? No, il problema è che io smistavo altre persone, capito? Beh, lo voglio sperare che non fossi ogni weekend in ogni angolo del senese. Un'organizzazione tra pianisti, cantanti, ristoranti, eccetera, eccetera. Quindi... Va bene, Valentina, mi sai dire al volo, che poi ho un'altra telefonata, al volo, sì. Quanto viene a organizzare un matrimonio? Quanto mi costa? Dipende dove lo vuoi fare. Lì da te, 10, 20? Sì. Ciao Valentina, grazie. Ciao. Abbiamo recuperato finalmente Simone da Roma. Pronto Simone? Matteo, ciao. Simone, guarda, c'ho 30 secondi. Quando ti sei sposato? Secondi. L'altro ieri. Come va? Tutto bene, rifarei solo la giornata del matrimonio e toglierei tutta l'organizzazione. Quanto è durata l'organizzazione? È circa 8 mesi. Voi 8 mesi? Abitavate già insieme però, Simone? Sì, esatto. Ok. Come hai fatto a capirlo? Non lo so, nel senso che di solito più o meno succede così. Lei come si chiama? Valentina. Valentina, dove andate in viaggio di nozze? In Messico, partiamo dopo domani. Bravi, buon viaggio, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Simone, Matteo, grazie. Ciao. Grazie a tutti quelli che ci hanno provato nonostante i telefoni di oggi. Grazie a Luca Camonesi, che oggi è stato con noi per la prima volta, Tiziano Bonini e Paulino Corleoni. Grazie soprattutto ad Alessandro, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Lorenzo, vivo a Verona, e la mia è la storia di un volo in Aliante che ha avuto dell'incredibile attraverso le Dolomiti. Questa è la mia storia e io sono qui.